Ricordate, per trovare la prima ipotenusa dovete fare la radice quadrata della somma di 36 e 64, mentre per trovare la seconda ipotenusa dovete fare la radice quadrata della somma di 9 e 16.